fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Diretta speciale, quella di mercoledì 31 ottobre del 2018. Ovviamente questa data non può che ricordarvi una cosa, cioè Halloween. La stiamo festeggiando con tanta bella gente, ma non solo, perché anche in questo caso nel nostro studio abbiamo delle persone che però stasera sono altre persone, perché hanno impersonificato magari i loro personaggi preferiti, magari. Ed hai ragione, Nicola. Le loro paure più grandi, non lo so, lo scopriremo tra poco. Benvenuti, ragazzi. Grazie mille, Nicola. Voilà. A precisare una cosa, questa data ricorda anche il compleanno di un nostro amico che siamo qua a festeggiare. Eh certo, ne approfittiamo. Quindi tanti auguri a Marcus, grazie. Bravo, bravo, auguri Marcus, grazie, molto bene. Canzone, canzone. Grazie. Beh, fine, bella, bella. I radio i tempi sono più bella, corti. Ma anche perché Luca è più serio di tutti. È noioso fare le stesse cose, no? Quindi esatto. Tutti arrivano fino in fondo, noi no. Noi ci fermiamo prima, per essere originali. È lì il bello, Nicola. Esatto. Ebbene, per intonarmi con lo studio. Grande fratello. Grande Nicola, voi non lo vedete, ma è travestito veramente da paura per Halloween. Da paura penso sia il termine esatto. Sì. Grazie, esattamente. E allora, ragazzi, da dove venite? Bolzano, quindi che è sempre fatti, in Italia. Vi siete fatti due passi comodi, sì, sì, per arrivare. Sì. Si capisce che vengono da Bolzano perché d'accordo. Almeno metà del gruppo ha le maniche corte. E quindi. Sì, va. Appunto. Adesso appunto. Trovami uno nella pista che ha le maniche lunghe. Beh, adesso te lo dico. No, dai. Lui, sì, lui, ma lui ce l'ha tirate su. E comunque di Bolzano anche lui. È di Bolzano anche lui. Sì, sì. Vedi che c'ha la camicia da uno che spacca la legna. Questo è di Bolzano. Giusto, è giusto. Di Bolzano anche lui. Bolzano anche lui. Bello, bello, perché adesso cominciamo anche a caratterizzare il gruppo. Le ragazze sono tutte vestite da principesse. Sì, ne abbiamo anche altre un po' in giro sparse. Sì, assolutamente. Una qua di fronte. Ma non mio amico, tra l'altro. Bene. Ma non, attenzione, da principesse qualunque. Cioè, ognuna ha scelto una principessa di un particolare cartone, particolare storia. Disney, tutte Disney. E l'ha rappresentato, tutte Disney. E la cosa più bella, mi perdonerete ragazze, siete bellissime, ma è vedere che i ragazzi non sono caduti nella banalità di fare i principi, perché era troppo facile. Quello l'ho fatto, Nicola, perché era troppo facile. Quindi abbiamo le principesse e i non principi. No, i non principi, nel senso uomini normali. Uomini non hanno della tempo, strada, sì, uomini sì. Medi. Normale, uomini medi. Underground. Parla una che c'ha la gola mozzata, dice è normale, c'ha il taglio in gola. Ciao. Giriamo la ruota. Basta così. Bene, andiamo avanti. Queste, grazie. No, scusa, ti fermo un attimo perché queste sono le dichiarazioni che fanno male. Sì. Queste sono le parole taglienti che vogliamo sentire. Ci faresti quasi un libro con queste parole. Sì, sì. Io lo comincerei. Non vorrei mai che l'uomo passasse come una cosa molto importante per noi. Cioè, noi ci vogliamo travestire perché siamo noi, punto. Brava. Ti sanguina la fronte comunque nel frattempo. Sì, ho preso una botta mentre stavo dicendo questa cosa. Vedi, il peso delle parole. Non mi piace parlare radiofonica, vorrei andare a parlare. A ballare, lo so, è un duro. Però Nicola, se allora lei vuole andare a ballare, secondo me dovrebbe aspettare sabato e andare al Just Dance. Facciamo un po' di marchetta. Che facciamo Remember le cavo a Bolzano. Comodo. Gestiamo delle serate. Vabbè. Certo, beh, ci sta. Se a Bolzano ci sta il marchettone. Just Dance. Spot. Vi aspettiamo. Allora ragazzi, facciamo un giro di presentazioni così anche chi ci ascolta e vi ascolterà. Vi ok, riconosce. Inizi te, Nicola. No, io non c'entro, siete vabbè, voi i protagonisti, vai. Iniziamo noi. Vai, nomi veri e nel caso delle donne, principesse e personificate. Partiamo da lei. Lei che è lei. Lei Veronica, non fumo da 5 minuti. Io sono Veronica, ho 23 anni. Basta. E sei vestita da? Sono Cenerentola. Bello, Cenerentola. Poi vai. Si vergogna. Io sono Luca. Sono vestito perché nudo faceva freddissimo. Giusto. Quindi ho deciso di vestirmi. Questa è una grande idea. Direi molto bravo. E niente, andiamo a Bolzano, facciamo delle serate bellissime. Vi invito tutti sabato prossimo al Just Dance. Ma è giusto. Ma scherzavo. È uno spazio libero. Scherzavo. Vi invito tutti sabato prossimo al Just Dance. Passiamo la parola alla nostra amica. Prossima. Con tue parole adesso. Non ti devi vergognare. Ciao. Al microfono. Io sono al microfono. E questo è un microfono, sì. Sono morena. No, non è vero, sono Biancaneve. E ho... Quanti anni ha Biancaneve? Beh, tanti. 33. 97, però giuro che sono meglio. 97, bello. Non ho così tante rughe. Le mele la tengono bene. Sì, perché giustamente una mela al giorno. Le mele. Toglimeli. Toglie il lupo di torno. Toglie, bravo, anche il lupo, anche il lupo. Vai, poi io la più moderna, Valentina, la più moderna del gruppo. E sono Maleficent. Maleficent, adoro, perfetto. Vai, vai, ultimi due uomini, accompagnatori. E niente, io sono un ragazzo della Maleficent e sto molto bene. Quindi Beneficent. Io sono Beneficent, Beneficent, esatto. Beneficent. Non era Deficient. Ma non Deficient, bravo, bravo. No, no. Io ragazzo siamo sulla stessa lunghezza d'onda, mi piace. Avete dei problemi. Può essere, può essere. E attenzione, Dulcis in fondo. Fabrizio Bolzano, grazie. Grazie a te, direi. L'unico con un'identità seria e un'identità definita. Bene ragazzi, intanto vi salutano con un bel gesto d'amore. D'affetto, d'affetto, d'affetto. Siamo pieni di amici. Hai visto come è vestito? Sì, sì. È una bomba il suo vestito. È chi? No. Perché hai paura del mio. Morena, devi parlare al microfono. Fa lo stesso. Lui è vestito da musulmano. No. C'è il radio. Perché fra un po' di tempo lui esploderà e ci ucciderà tutti. Bene, esatto. Bene. Quindi, bene. Questa diventa radio Al Jazeera. L'ottimismo. E tac. Beh, sì, l'ottimismo vola. Io, scusami, in questi 15 secondi ho pensato a tante persone che devo salutare. Tu sei felice nella tua vita. Madonna, ma chi hai moglie e figli? Cioè, è vostra hai amica questa? Chi è che allora, no. Se hai bisogno, lei c'è cioè, uno psicologo per gli appuntamento. Hai moglie e figli? No, sono a posto così, ho smesso. Oh, ho bravo. Smesso così. Chi fa radio deve per forza. Sono. Vabbè, allora morirai solo perché tra un po'. No, Morena, non si dice così, cioè morirà felice in caso. L'ottimismo vola. Senza problemi. Esatto. Non avrà problemi, cioè. Ma quello discorso. Tutto questo qua è un. È tutto dritto, non c'è una canzone tra. No, è uno spazio. Ma è un libero. Podcast o ci sentono? Siamo sulla frequenza? Vi sentono e vi sentiranno in podcast. Ma siamo anche due. In frequenza? Siamo anche in frequenza. Oh, è là, madonna. Bello, bello. Ma siamo in diretta? Sì. Quindi se diciamo le parolacce ci sentono tutti. Sì, sarebbe, infatti, sarebbe c'è all'ingresso. Nicola, io ti dico di più. A noi, perfetto. Noi avevamo un programma radio e sì, ci hanno sì. tolto il programma radio appunto perché dicevamo quindi, parolacce. Però 2 anni siamo durati, quindi 5 minuti esatto. Quindi vi invito a evitarlo per far sì che vi pubblichi. No, ma ti dico con cosa ci hanno bloccato. Bravo, esatto. Ti dico con cosa ci hanno bloccato. Vi aiuto. No, vi aiuto. No, state bravo, andando forte. State grazie, andando forte. Grazie, anche te, Nicola. Sei molto bravo. Perfetto. Quindi stavo pensando a cosa dobbiamo dire ancora, però direi ma che abbiamo un sacco detto di cose da dire. Beh, quali sono stati gli ospiti più strani che hai intervistato questa sera? Beh, io ho visto intanto dei ragazzi che venivano da Just Eat e mandavano Just Dance. È quello che perché non ho ancora cenato, mangiare. Non ho ancora cenato, capito? Just Dance e invitavano a Just Dance. Fatto bene. Abbiamo Marchetta, quindi vuol dire che i nostri PR funzionano, visto? Benissimo, sono perché, molto contento. Perché è un meccanismo della comunicazione, più lo volte lo dici, più Just Dance. Tra l'altro volevo dirvi qual è il mio gioco della Wii preferito. Qual è? Just Dance. Grande Nicola. Grande Nicola che verrà anche lui. Ci sarà Dance. Just Dance sarà il nostro vocalist per quella serata. Beh, però attenzione perché forse non hai detto una cavolata ad Aldi. Fai anche il vocalist? No, però. Bene, quindi no, chiede poco. Se non lo è, chiede poco, possiamo provare. Posso provare. Potresti cimentarti, esatto. Sì, ci vuole. Io con una fetta di torta o qualcosa del genere. Ma torta. Ti ripaghiamo in visibilità, Nicola. O strudel o una sacca. Vabbè, esatto. Via così, allegria. Va bene. Mi fido assolutamente. Grazie. Se Morena, se con noi stasera abbiamo il passaggio così non ti devi bene. No, più che altro sai qual è, io ho un grosso problema e per quello che sto qui ho un grosso problema con la pista, perché ballo sempre da solo, no? Sai come si dice in inglese ballare da soli? Dance alone. Sì, però anche Just Dance. Immaginavo. Just Dance. Nicola è il numero uno, è già dei nostri. Nicola già dei nostri. Il nostro PR. Volete Nicola? Lo troverete da noi al Just Dance prossimi sabati. Esatto, io lavoro. Ti puzzano le ascelle? Prova i nostri nuovi balsami. No. Lavora al bar, sponsorizza. Aspetta, devo fare gli auguri a Marcus. Perché tanti auguri, Marcus. 26 anni. 18. Auguri, e non Marcus. Sentirli, esatto. Aspetta, facciamo promuovere anche il bar della nostra amica, mi sembra giusto? Allora venite a trovarci al bar dove si mangia solo le colazioni. E dove il microfono è qua? Non è vero. Ah, quindi aveva il microfono nell'orecchio. Il bar che apre per il periodo più ridotto della giornata, esatto, alle 6 alle 8 del mattino. No. Ma bisogna fare pubblicità, fate bene. Non vai, guarda, io ti lascio. Essere e sani di mente e non pensare un po'. Peccato che in radio abbiamo tipo 10 secondi per fare pubblicità. Bene, ciao. Allora, Bar Bolzano United, vi troviamo su via Mendola 23. Vi troviamo lunedì al venerì, sempre con voi. Ma perché mi fate fare queste cazzo di... Ah, no, non si può. Va bene, non si può. Ok, andate. Basta così. Si è giocata l'occasione della vita con una parolaccia. Ma chi è questo? È con noi. Non lo so. No, è Cristiano Ronaldo. Bravo. CR9. È un po' CR. Ma lui è ma lui, scusami, ma lui è il nano di The Wolf of Wall Street? No. O sbaglio? No. È quello che lanciavano, giusto? No. Non lo so. Può non essere, è lui, però è alto uguale. Volete andare? Ok. Volete andare? Allora, aspetta, io però ti porto altre persone, posso? Ti porto il festeggiato dopo. Portiamo il festeggiato. Se c'è ancora assolutamente, dello spazio radiofonico, io quasi te lo rubo. Noi lo apriamo, noi lo apriamo. Lo apriamo in due. Allora, intanto salutiamo. Salutiamo tutti. E ringraziamo gli amici di Bolzano. Poi andiamo. Ma ha un nome questa radio, giusto? Ristoradio Convento, la radio del nostro. Ristoradio del Convento. Ristoradio Convento. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori. Grande Nicola. Soprattutto un grazie a Nicola che troveremo sabato sera. Assolutamente. Grazie Nicola, grazie, grande ragazzi, numero uno. Ci vediamo alla prossima. Ciao.